Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Benvenuti a una nuova puntata di Lucciole nelle tenebre. Io sono Margherita e qui con me è il nostro consulente per quanto riguarda le questioni giuridiche, Nazario. Ciao a tutti. Oggi parliamo di un problema che è sotto gli occhi di tutti nella città di Bologna, che riguarda l'emergenza abitativa. Infatti, se soltanto date un'occhiata in giro, se date un'occhiata ai giornali, alle televisioni, eccetera, vi renderete conto di quanto si parli di sfratti, di occupazioni. E quindi abbiamo voluto dare una nostra visione, abbiamo voluto dare un'occhiata, insomma, a quanto stava succedendo in questa città. Quando si parla di emergenza abitativa, dobbiamo considerare che ci sono al momento, nella sola Emilia Romagna, 5.507 famiglie che sono in lista d'attesa per entrare negli alloggi popolari. E appunto, considerando che i processi sono lunghi, la burocrazia è lunga, un sacco di famiglie si trovano senza casa, in condizioni di precarietà, e non hanno una casa perché non possono permettersela, perché ovviamente, considerata la crisi in cui ci troviamo, ci trova l'Italia, si trova l'Europa, la casa è uno di quei beni che è diventato un bene di lusso, quando in realtà dovrebbe essere un diritto di tutti. Le istituzioni hanno cercato di porre un rimedio a questa emergenza abitativa, anche se ci desta qualche perplessità. Comunque passo la parola a Nazario, che ha letto un sacco di cose riguardanti queste soluzioni possibili istituzionalmente parlando. Poi dopo parleremo anche delle soluzioni alternative, non sempre soluzioni legali, perché a volte, quando appunto l'istituzione non lo permette, si tende anche a entrare nell'illegalità. Comunque adesso, Nazario, parlaci un po' di questa cosa. Sì, allora, come hai ben introdotto, l'argomento che trattiamo oggi è uno dei più caldi del momento. Io, dopo aver fatto alcune premesse inderogabili, localizzerò la nostra attenzione sul decreto legge 28 marzo 2014 numero 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014 numero 80, è titolato Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015. Quando andremo ad analizzare il cosiddetto, perché ha un nome questa legge, è conosciuta come piano casa, ci accorgeremo verso dove siano orientati i requisiti di straordinaria necessità e urgenza che hanno portato alla redazione di questo decreto legge e successivamente alla sua conversione. Questa è una piccola provocazione, mi sembra che la straordinaria necessità di stanziamento fondi sia più per l'Expo 2015. Infatti, anche proprio il fatto che in uno stesso, cioè proprio nel titolo, vengono giustapposte l'emergenza abitativa e l'Expo 2015, e l'emergenza proprio credo sia dovuta più all'Expo 2015 che all'emergenza del problema abitativo. Inizierei con questa massima che, diciamo, conduce, ha condotto, continua a condurre questa lotta per la casa. Troppa gente senza casa, troppe case senza gente, è questo ciò che urlano e che viene urlato in mezzo tra i cortei, nelle manifestazioni. Sì, infatti, appunto, quando si parla di troppa gente senza casa, appunto i numeri sono quelli. Quando si parla di troppe case senza gente, c'è un problema di un sacco di edifici a Bologna che sono mantenuti chiusi perché conviene tenerli chiusi ai privati, conviene tenerli chiusi al comune, perché appunto non sono in condizioni di degrado tale che i soldi non bastano per metterli a posto. E nonostante ci siano tantissime famiglie senza casa che per morosità incolpevole vengono sfrattate dagli alloggi popolari, questo grande numero di case senza abitanti non vengono date in concessione, ma vengono mantenute chiuse. Infatti questa appunto è la situazione che colpisce migliaia di famiglie in tutta Italia. Infatti il nostro paese si trova agli ultimi posti delle classifiche europee per la percentuale di alloggi sociali, calcolata in funzione dello stock in affitto, che si riferisce al 5%, contro una media intorno al 25% degli altri paesi. Sul fronte del fabbisogno invece si calcolano oltre 600.000 domande in attesa nelle graduatorie e almeno altrettante famiglie in situazione di bisogno, oltre ai migranti in stato di clandestinità che non hanno diritto ad accedere alle case popolari. Ma prima di entrare a pieno nel discorso, direi di lanciare una canzone che è comunque una canzone in tema che fa l'introduzione a questa nostra discussione, che si chiama Diritto al tetto dei ministri. Eccoci ritornati in studio e adesso ci inseriamo nel fondo della discussione con Nazario, che ci parlerà di questo famoso piano casa di cui si sente tanto parlare e riguardo al quale tante sigle, sindacati e comitati per il diritto ad abitare si sono schierati contro, e adesso appunto con la consulenza del nostro giurista cercheremo di capire perché. Quindi, come si può desumere dalla canzone, questa aria che aleggia e che deriva da questo piano casa trasmette molta rabbia. Perché? Sì, è vero, sono diverse le novità previste per combattere l'emergenza abitativa, ma non tutte le misure partiranno con effetto immediato. Quindi sono più che altro misure a lungo termine, che puntano sì a una risoluzione di quella che è un'emergenza, però lungo termine ed emergenza pare che non vadano d'accordo insieme. Quindi io vorrei puntare per lo più sull'articolo 5 del piano casa, che è l'unica norma direttamente e immediatamente operativa nei confronti di coloro che soffrono questo dramma. Vorrei avere il piacere di leggerlo. Lotta all'occupazione abusiva di immobili è rubricato in questo modo. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento ai pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e agli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. Ok, cosa vuol dire questo? Soprattutto la parte in cui parla dell'impossibilità di queste famiglie, di questi individui, di chiedere la residenza. A parte che la ritengo una situazione inimmaginabile oggi, perché poiché migliaia di famiglie povere e che si sono impoverite sono costrette a vivere in immobili occupati abusivamente, mi chiedo dunque quali siano questi casi di straordinaria necessità e urgenza. Potrei pensare al recupero di fondi privati economicamente inutilizzabili a causa delle occupazioni. Potrebbe essere far girare la ruota economica imperniata sul diritto di proprietà dei maestri del cemento. Oppure recuperare i fondi immobiliari bancari con l'obiettivo di reimmetterli in commercio e avere la possibilità di offrire mutui in cambio di interessi. Ecco, alla luce di queste domande che mi pongo, che ci poniamo, che ci viene da porci, pare di essere piuttosto una parata del capitale, unico centro di diritti e artefice dei doveri. Però, appunto, come già detto prima, qualcuno, noi, ma come detto da Margherita, anche molti comitati, associazioni, sindacati, movimenti si stanno occupando del problema e pensano ai diritti costituzionalmente garantiti e legati al concetto di residenza, e che da questo articolo riteniamo vengano violati, come ad esempio il diritto alla salute, che non può essere goduto appieno nel caso in cui non si abbia una residenza, o meglio un domicilio, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, oppure l'esercizio dei diritti politici, come l'iscrizione alle liste elettorali e la partecipazione all'elettorato passivo, nonché ogni sussidio e agevolazione o servizio che viene ricondotto all'articolo 3,2 della Costituzione. Per non parlare della cosa che io personalmente ritengo tra le più importanti, sarebbe il diritto allo studio, in quanto la residenza è una condizione necessaria dell'accertamento dell'obbligo scolastico. Dunque, a questo punto, delle famiglie in lista, delle famiglie in mezzo a una strada, nonché degli occupanti di questi immobili, che cosa ne facciamo? Qual è? Non appare una violenza la sola idea dell'esistenza dell'articolo 5? Eppure, questa è legge. Il decreto Renzi-Lupi, che porta a negare le utenze, fa sì che vada a ledere tutti questi diritti appena enunciati, per il cui esercizio è funzionale la residenza o comunque un posto all'interno del quale si possa abitare. Ciò premesso, le famiglie costrette a vivere abusivamente a cosa incorreranno? Non potranno votare, non potranno iscrivere i figli a scuola, non potranno accedere al servizio sanitario nella sua completezza, non potranno più ottenere, nel caso in cui fossero stranieri, la cittadinanza italiana. Questo è il motivo per cui i vari movimenti per la casa si sono schierati, proprio le loro richieste vertono sull'abolizione dell'articolo 5 del piano casa. Altre richieste che loro propongono sono una moratoria generalizzata degli sfratti, che sono all'ordine del giorno e che loro, tramite lavori di militanza, cercano di ottenere delle proroghe per gli sfratti dalle varie case popolari, per le famiglie che per morosità incolpevole non riescono più a pagare. Inoltre richiedono il blocco degli sgomberi delle occupazioni abitative, anche quelli agli ordini del giorno, non dimentichiamo, negli ultimi mesi ce ne saranno stati tantissimi a Bologna. Poi l'accesso alle graduatorie per le abitazioni nell'edilizia residenziale pubblica per le famiglie a reddito zero, che invece non sono garantite. Inoltre richiedono il riconoscimento della pratica dell'autorecupero, perché in una situazione in cui il comune mantiene chiusa a chiave decine di casa di sue proprietà vuote e sfitte, lasciando che cadano a pezzi per mancanza di fondi per recuperarle, in una pratica di occupazione in cui le case vengono recuperate, vengono ristrutturate a costo zero per il comune, invece tutto a spese degli occupanti, in realtà è una pratica di buon uso, una situazione in cui il problema della mancanza di abitazioni è un problema che esiste e che e visibilissimo, senza parlare poi della svendita di immobili pubblici e privati per fare cassa in prospettiva di una possibile soluzione davvero molto a lungo termine e la costruzione di nuovi edifici che rimangono vuoti. E con tutto questo che appunto le case popolari non sono accessibili, che poi queste case popolari sono il risultato delle trattenute dei lavoratori degli anni 80 e si mantengono vuote. Per esempio, uno strumento che potrebbe essere sfruttato e che potrebbe portare a una risoluzione immediata di quella che è questa emergenza è presente in quella che è una legge abbastanza vecchiotta del 1865, ma nonostante ciò, nonostante la sua vecchiaia non ancora abrogata, potrebbe portare il comune a requisire degli edifici di proprietà che sono inutilizzati, che magari sono sfitti o comunque dei quali il proprietario non ha un interesse, non ha manifestato un interesse attuale nello sfruttamento dello stesso, per concederlo a quelle famiglie che attualmente invece si trovano in una condizione di disagio dovuta all'assenza di un tetto sopra la loro testa. Ma a Bologna si continua a seguire la linea nazionale, che è diciamo quella dell'alienazione dei mobili pubblici. Diciamo anche che comunque questa la scelta della requisizione di un immobile è una scelta che porta il comune o il sindaco a schierarsi visibilmente contro quello che è il diritto di proprietà, quindi spesso e volentieri queste cose non vengono fatte perché il proprietario potenzialmente è un soggetto economicamente forte dai quali dipende una certa influenza elettiva. Per oggi questa discussione termina qui, vi rimandiamo alla prossima puntata che sarà sempre incentrata sul diritto all'abitare, in cui andremo più a fondo per quanto riguarda proprio le occupazioni adesso che vi sono a Bologna e andremo a fare un sopralluogo, alcuni li abbiamo già fatti, ve ne parleremo proprio per vedere la verità oltre alle sigle dei giornali, diciamo così. Lanciamo una canzone di lotta degli Assalti Frontali che si chiama Denaro Gratis. Dacci fretta, quello che ci spetta. Dacci fretta, quello che ci spetta. Dovete darci il denaro, sì. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo. E poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi. Forza, ora dividete la grana. Siamo soci alla pari nella società umana. Banchiere vieni strada, datti una calmata. Dacci il bottino, tira fuori soldi e paga. Dacci il denaro, il primo di ogni mese. Mandiamo avanti il mondo, ne abbiamo spese. Firma l'assegno, dacci un taglio e fa il bravo. Qui nessuno vuole essere il tuo schiavo. Noi non abbiamo freni, dove va il nostro passo? Lì va la vita, tu vai all'incasso. E se ora il fratello butta il cuore dell'idiota diretta al suo conto, gira la ruota. Noi sappiamo quanto l'obbedienza e l'onestà non porta in questa vita la felicità. Perché di ricchezza nel mondo ce n'è, ma la parte che ci spetta adesso tasca di chi è? Dovete darci il denaro, dovete darci il denaro, poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi. Della terra la facciamo noi, piramidi in Egitto le abbiamo alzate noi, il fondo di miniere lo scaviamo noi, l'uomo sulle stelle ce lo mandiamo noi, ogni informazione a sangue di noi, ogni rivoluzione inizia solo se ci siamo noi, la ricchezza della terra la facciamo noi ce n'è, ma la parte che ci spetta adesso è in tasca di chi è? Grandi produttori, dalle elementari, siamo sempre al lavoro e non bastano orari, con le nostre azioni voi incassate denari, coi nostri denari fate profitti stellari, quando lo scrittore dà potenza alla rima, è la voce del banchiere con l'opzione per prima. Ma quando un hacker sforza accesso ai sistemi, è il banchiere che rivende risposte ai problemi. Sono i biologi o no, che la lavora leggeri. Banchieri arrivano e brevettano i semi. Sono i medici o no che lavorano ai vaccini. Banchieri mettono brevetti sui nostri destini. Ecco i parassiti, ecco la malattia. Succhiano, succhiano la nostra energia. Poi fanno un break in Polinesia a comprare terre selvagge fondali del mare. Vola un aereo privato fiammante. Cena in villa dell'amico presidente. Parlano di quanta libertà, quante possibilità ci sono in questa nostra società. Ma se guardi bene tra i ricami, tra tessuti e bottoni, c'è un'anima cucita di milioni di nomi, che poi va a letto sul nudo pavimento come un nuovo originale tipo di parcheggio a tempo. Dovete darci il denaro, il denaro. Dovete darci il denaro e poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi. Sta città di chi pensi che sia, sta città di chi pensi che sia. Sei il primo boom che succede nella via. Tu corri, corri dai fucili della polizia. Sta città di chi pensi che sia, ma sta città di chi pensi che sia. Sei il primo boom che succede nella via. Tu corri, corri dai fucili della polizia. E chi credete davvero di essere voi? Chi credete davvero di essere voi? Chi credete davvero di essere voi? Che prendete 500 volte più di noi. Dovete darci il denaro, il denaro. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi. Dacci in fretta quello che ci spetta. Dacci in fretta quello che ci spetta. Dacci in fretta quello che ci spetta. Eccoci tornati in studio, ci siamo trasformati, siamo sempre un uomo e una donna, ma non siamo più Margherita e Nazario, siamo Eleonora e Carmelo per il vostro attesissimo Buffier. Dunque, oggi nel Buffier vogliamo parlare di riconquista degli spazi urbani. In particolare vogliamo parlarvi di un'iniziativa che è in corso qua a Bologna da ieri, tra l'altro, che si chiama In Context. È stata definita come conversione di residui urbani, un progetto artistico di riappropriazione di uno spazio dismesso. È un'iniziativa che avrà luogo in via Libia 72 sotto l'Arcate del Ponte. È promossa dall'Accademia delle Belle Arti di Bologna e dal Comune di Bologna. Ora Carmelo, ci presenti un po'? Allora, In Context è il progetto di Caetana Casone, che ha vinto il premio Roberto Daolio promosso dall'Accademia di Belle Arti. È possibile appunto vederlo nell'Arcate del Ponte di via Libia. Gli artisti sono al lavoro sin da ottobre. Questa esposizione durerà fino a metà marzo. L'idea è appunto quella di riqualificare un posto abbandonato e dargli una nuova vita e generare così una riflessione sia nelle persone che vivono in quel contesto, sia espanderla a tutta la città, quindi creare un dialogo e un coinvolgimento di tutti. Quindi, come ho detto, gli eventi sono iniziati già da ieri, quindi affrettatevi. Ma Carmelo, cosa c'è nel futuro invece? Allora, 24 febbraio all'Urban Center, all'interno di Sala Borsa, alle 17, sarà possibile vedere le mostre dei 6 vincitori del concorso. Ma Carmelo, non ti ricorda qualcosa tutta questa questione, sì, del riappropriarsi di spazi? Sì, sì. Cosa, sì, ti fa venire in mente? Bagno occupato, The Pills, con Elio Germano che legge Brecht al contrario. Mi raccomando, guardatelo. Questo perché noi amiamo fare citazioni colte, quindi adesso vogliamo mostrarvi tutta la nostra cultura. Ma vaffanculo il tecnico, che cazzo c'entra? Comunque, adesso vi chiamiamo Margherita, che vuole darci un ultimo annuncio, e poi vi salutiamo. Io ritorno qui soltanto per introdurvi la canzone con cui ci salutiamo, perché ha una bella storia, nel senso che ieri ero la Vereda e infatti ritornate ad andarci perché era a riaperto, sta facendo qualche pratica burocratica per diventare associazione, quindi andate, associatevi perché Tori ha bisogno di voi. E lì, proprio lì, c'era un simpatico uomo con la chitarra che strimpellava. Ora la riconoscerete anche voi, ciao a tutti. Ciao.